pensami e non pensare più, se un giorno finirà, devi prendere la vita com'è e non devi più soffrire perché è inutile. Sei tanto giovane e tutto il mondo ormai sta sorridendoti, devi prendere l'amore com'è e felice sarai. La vita è tanto bella come viene, e allora sorridi con me. Non t'arrabbiare tanto, sai che non conviene, e allora tu, amore, baciami e non fermarti più, non avere mai problemi perché ogni cosa è tanto bella come lo capirai. Che cosa importa se gli amori nascono e poi finiscono, devi prendere l'amore com'è e felice sarai. La vita è tanto bella come viene, e allora sorridi con me, non t'arrabbiare tanto, sai che non conviene, e allora tu, amore, non piangere più. Thank you.